English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. La scorsa settimana ci siamo divertiti ad ascoltare Steve Martin e Alec Baldwin che presentavano gli Oscar. Molto simpatici, molto affiatati tra loro, anche perché hanno appena girato un film insieme. E questa volta andiamo a sentire proprio le voci di questo film che si chiama It's Complicated, è complicato. In italiano un film divertente, abbiamo ascoltato tre degli attori, non Alec e Steve, perché li abbiamo già ascoltati tutta la scorsa puntata. Incominciamo con Meryl Streep che ci racconta un po' com'è la storia di questo. È complicato. Jane is a character who has reached a point in her life after the disruptions of a life where she's sort of in the downhill, in the easy sense of the downhill shush. You know, she's having a good time. Her business is finally launched and successful. Her marriage that ended 10 years before, she sort of reconciled to. Her family, her children seem to have weathered that storm and are mature, and big changes coming. Their youngest is graduating from college, and she's embarking on this big building project that she's been putting off for many, many years until she had the funds, and she kind of is interested in the architect of it. So things really kind of looking great until Jake re-enters her life. Allora, Until Jake Re-enters Her Life, abbiamo capito che è la storia, tra l'altro, di questa Jane, che è il character, cioè il personaggio nel cui ruolo recita Meryl Streep. Una vita piuttosto pacifica fino a un certo punto. Un momento buono, ricordiamo questo carattere, il nostro vecchio false friend, non è carattere naturalmente ma personaggio, l'abbiamo combinazione incontrato molte volte visto che abbiamo parlato tanto di cinema, e qui è da notare come lei dice che questo carattere appunto has reached a point, avrebbe potuto anche dire reached, cioè il simple past, però il fatto di usare questa forma verbale dà proprio l'idea che c'è stato tutto un percorso e che adesso è arrivata a un punto della vita che invece è diverso da tutto quello che c'è stato prima, cioè delle disruption of a life. Disruption è tutti gli incidenti della vita, ma buoni e cattivi naturalmente, tutte le cose che ci sconvolgono. Poi a un certo punto, se si è sufficientemente fortunati, tutto sembra più calmo. She's having a good time, insomma, sta bene, sta passando un periodo felice anche dal punto di vista lavorativo. Sì, le dice questa business is finally launched. To launch a business, to launch vuol dire lanciare nel senso di fare una startup, quindi is launched and is successful, e quindi she's sort of in the downhill, tra l'altro anche il termine sportivo che si usa per la discesa libera, ma vuol dire appunto che si è in una fase dove le cose vanno nella direzione appunto discendente, non si deve fare fatica, le cose cominciano a essere più facili, anche perché insomma coi figli la situazione è arrivata a un punto piuttosto soddisfacente. Quindi business finally launched and successful, e poi reconciled to her family, cioè c'è stato tutto un processo di riconciliazione, il divorzio era stato 10 anni prima, and the children, dice Meryl Streep, have weathered that storm. Questa è un'espressione molto bella, weather naturalmente vuol dire tempo, ma to weather vuol dire attraversare, diciamo, un momento meteorologico difficile, quindi sono riusciti a attraversare, a superare questa tempesta emotiva naturalmente. But things kind of looking great. Quindi le cose sembrano davvero to look great, che sembra che insomma tutto positivo. Sentite come lei, che è in un momento colloquiale, usa molto questo kind things, cioè un modo anche, si vede insomma, una Meryl Streep molto sciolta, perché sta parlando così a braccio di questo film che tra l'altro in Italia è uscito ieri e io non vedo l'ora di vedere. Tra l'altro tutto sembra così piacevole, ma lei l'ha detto: until Jake re-enters her life. Vi dico solo che Jake, che è l'ex marito, è interpretato sullo schermo da Alec Baldwin, quindi possiamo immaginare che tipo di ingresso possa fare Alec Baldwin nella sua vita. Ma nel cast di È complicato c'è anche John Krasinski, un ragazzo molto carino. Qual è il suo ruolo? Ce lo spiega lui. I play the character of Harley, who is Meryl Streep's daughter's fiance, twice removed. No, I'm just kidding. So I'm marrying into this family, and it's a really fun part to play. I think that, you know, the family dynamic is a really key part of the movie, and I think that it's really interesting that her daughter is in this really loving relationship when she's sort of looking for love in all the different, I won't say wrong places, but so it's been really fun to play. And of course, working with this cast is just phenomenal. The story is that I'm the only person who knows that Meryl's having an affair with her ex-husband. And I find that out by seeing them walk up into the same elevator bank to go up to the same hotel room. So a lot of fun situations ensue, some involving drinking to get over it. So it's been really, really fun. Allora, non so se l'avete colto, ma nelle parole di John Krasinski, che è l'attore che interpreta il ruolo di Harley, c'è una rivelazione di quello che succede in It's Complicated. Non stiamo svelando ovviamente il finale. Cosa racconta John Krasinski? Quindi lui è Meryl Streep daughter's fiancé. Fiancé è una di quelle parole che gli americani e gli inglesi hanno preso in prestito dai francesi e vuol dire fidanzato. Quindi lui è il fidanzato e I am marrying into this family. Anche questa è un'espressione molto bella, cioè si sta sposando questa famiglia, perché è chiaro che capiamo che è una famiglia molto unita, molto complicata, e perciò sposare la figlia di Meryl Streep vuol dire un po' anche sposare l'intera famiglia. Però ribadisce fun part to play, quindi si sono tutti divertiti apparentemente. Questo dovrebbe essere una garanzia anche per la riuscita del film. Cosa scopre il personaggio di Harley? È l'unico a sapere cosa. Quindi the story is, cioè qual è, cos'è, cosa, perché questo mio character è importante, al di là di fatto di essere il fidanzato della figlia di Meryl, che I am the only person who knows that Meryl Streep is having an affair with her ex-husband. Insomma, lei ce l'aveva lasciato intuire, no? Tutto stava andando bene until Jake re-enters her life. Ecco, Jake non soltanto rientra nella sua vita, ma riescono anche a avere una nuova scintilla. Questo è quello che... l'unica cosa che possiamo dire, ma credo che sia un po' un segreto di Pulcinella. E quindi, insomma, questo, il povero John Krasinski deve tenersi per sé questo segreto, perché li becca in pieno. Anche perché, l'abbiamo detto, non è il finale del film, non lo è in nessun modo, da qui si sviluppano le situazioni divertenti, lo dice lui. Sì, quindi a lot of fun situation ensue. To ensue vuol dire sorgere, un verbo abbastanza così inusuale. Evidentemente John Krasinski ama parlare anche forbito, è sicuramente una parola che non incontriamo spesso. Quindi queste situazioni divertenti vengono fuori e some of them involve in drinking to get over it. E alcune sono divertentissime, ma sono probabilmente anche talmente difficili da gestire che tanto vale berci su to get over it, per superarle, per affrontarle. Anche perché in qualche modo deve arrivare anche Steve Martin in tutto questo quadretto. Però noi abbiamo sentito che arriva, ritorna, anzi, Alec Baldwin, che nel frattempo però si era sposato, e si era sposato con la giovane Agnes, che è interpretata sullo schermo da Lake Bell. Sentiamola. You know, there's 500 things that she's thinking about and she's all focused about the package that's in front of her. So, you know, it's a great benefit to have the writer and the director and really, you know, the creator right in front of you, because she knows exactly what she wants. Meryl Streep is incredible, though, and you have to understand that she is incredibly generous. She does not make you feel uncomfortable at all in terms of the way she's acting or anything. I mean, she's, you know, but the issue is that you're an actress, so you've clearly grown up watching her, and there's nothing you can do about being starstruck a lot, to her, because she is literally Meryl Streep. Una cosa che mi sono dimenticata di dire, una cosa importantissima: Lake Bell parlava delle due donne che reggono il film. Lei è una giovane attrice, ma le due donne che davvero reggono il film sono, da una parte, Meryl Streep, grande protagonista, dall'altra la regista, che è Nancy Meyers. Sì, e questa Lake Bell è estremamente colpita, è stata estremamente colpita dalla professionalità, ma anche dalla capacità di queste donne di lavorare insieme a tante cose, di concentrarsi insieme. Quindi dice the 500 things that she's thinking about. Quindi è chiaro che Meryl Streep riesce a gestire, perché poi è, insomma, in un film del genere è chiaro che diventa il fulcro del film, e quindi pensa a 500 cose contemporaneamente, she's all focused, e riesce a mantenere la concentrazione, cioè tutto quello a cui pensa lo pensa bene, the whole package that's in front of her. Quindi questo pacchetto di cose da seguire, quindi da una parte la sceneggiatura, la gestione dei personaggi, e ovviamente dice Lake Bell, it's a great benefit to have the writer and creator in front of you. E quindi naturalmente avere queste due donne straordinarie che lavorano davanti a te e che ti danno anche soltanto guardandole, ti fanno capire cosa devi fare, it's a great benefit, è un grande plus per un'attrice. Per un'attrice giovane non deve essere facile recitare insieme a Meryl Streep, anche se è un grande esempio avercela di fronte. Lei lo dice, lei è incredibile. E ci dice she does not make you feel uncomfortable, cioè benché uno abbia di fronte un mostro della regia della recitazione, sappiamo, record di nomination agli Oscar, come abbiamo visto nella scorsa puntata, non ti fa sentire non a tuo agio. Tra l'altro è la stessa cosa che aveva detto Lindsay Lohan, che aveva recitato con lei nel film di Robert Altman, cioè che era stata un po' come una mamma, come una mentore, non fa pesare questa sua grandezza. Devo dire che lei lo riconosce, che you've clearly grown up watching her, sei cresciuto guardandola come attrice. E però succede questa cosa bellissima, questa espressione bellissima, cosa non puoi impedire a te stessa di fare. Sei per forza about being starstruck. Struck è il passato remoto di strike, che vuol dire essere colpito. Starstruck vuol dire che sei colpito perché vedi una star, una di quelle espressioni un po' che noi dobbiamo usare 10 parole per spiegarla. Quindi non puoi evitare questo shock da star. Ecco, tu ce l'hai davanti e sei scioccato. A little bit? No, non a little bit. A lot bit. Che questa è un'espressione che Lake Bell si è proprio inventata. Quindi non un pochino moltissimo. E perché? She's literally Meryl Streep, insomma. Ce l'hai davanti, l'hai sempre vista sullo schermo, l'hai sempre ammirata sulla carta e tutto un tratto ce l'hai davanti. E sei starstruck. Che bello questo starstruck. Però la nostra puntata di English 24 anche questa settimana si conclude qui, quindi l'appuntamento con gli attori è complicato e al cinema. L'appuntamento con English 24 è per il momento in edicola, in attesa di risentirci sabato prossimo. Ringrazio Pietro Lacorte in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.